Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Guardo le facce della gente che incontro camminando. Vedo nei loro occhi stanchezza, preoccupazione. Pensavo di incontrare persone più felici di me, e invece mi sembra di no. Io però oggi mi sento felice, pieno di entusiasmo, e non ho proprio voglia di farmi rovinare il mio primo giorno di libertà. Mi chiamo Luciano, ho 45 anni, vengo da Quartugiaro e tutto qui. Io non lo conoscevo e faccio ammenda, però ringrazio Alessandra Tedesco della redazione giornalistica di Radio 24. Si dice? Della redazione di Radio 24, che ha fatto una cosa che di solito non facciamo, o meglio, semplicemente non accade, non è che non la facciamo. Questo è un programma in cui, come sapete, ci arrivano delle storie perché voi ce le mandate. Voi siete qui, @radio24.it. C'è però una parte del mondo in cui le storie non possono essere mandate, semplicemente perché quella parte è chiusa al resto del mondo, e quindi non c'è comunicazione con l'esterno, se non attraverso delle persone come Alessandra Tedesco, come quelle che hanno fondato un gruppo che si chiama Trasgressione e che lavora in questi ambienti che sono chiusi con il resto del mondo, che sono le carceri. Alessandra fa parte di questo gruppo che, ripeto, si chiama Trasgressione, che è gestita da uno psicologo, credo uno psicoterapeuta, che si chiama Angelo Aparo, è un medico che ringraziamo, e grazie a lui abbiamo avuto i due racconti che leggiamo oggi, delle persone che da lì scrivono e cercano di comunicare con il mondo, ed è per questo motivo che oggi abbiamo deciso di ricevere racconti che siamo andati in qualche modo a cercare, a stanare in quell'ambiente, e che parlano di libertà, anche se in realtà sarebbe stato giusto, ma noi non siamo, diciamo, dei geni col calendario, sarebbe stato giusto farlo domani, visto che domani è il 25 aprile, è della festa della liberazione, così anche solo per assonanza con il nome, liberazione e libertà, ma tant'è, lo facciamo oggi. 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it, ma anche il profilo Facebook è sempre quello, che è Matteo Caccia, io sono qui. Se avete avuto a che fare con il concetto di libertà nella vostra vita, qualunque esso sia, non è necessario che siate rimasti chiusi in un carcere per doverlo affrontare. Se invece per caso siete davanti a un computer e volete saperne qualcosa di più di questo gruppo di cui oggi parleremo e da cui leggeremo alcuni racconti, trasgressione.net è il sito internet, è un gruppo che appunto lavora con carcerati e detenuti ed ex detenuti e anche in semilibertà, mi diceva Alessandra, tra cui c'è il protagonista della storia di oggi, che è Luciano. Quindi Luciano, riusciamo a sentirlo al telefono, non perché abbiamo trovato il modo di far entrare un cellulare all'interno di una carcere, ma semplicemente perché lui è un detenuto in semilibertà, quindi ha una vita sua, lavora, è fuori, e quindi ci potrà parlare e ci ha raccontato la sua storia. I carceri, vi dicevo, in cui lavora il gruppo Trasgressione sono quello di Opera, quello di Bollate e quello di San Vittore, quindi hanno a che fare comunque con Milano. Vi leggo qualche messaggio che è già arrivato e che parla di libertà in qualche modo. Emanuela, mi sono sentita libera quando ho finalmente dato alla luce mia figlia. Mi sentivo preda di una sorta di autoschiavitù in cui ero troppo rigida con me stessa e non mi permettevo di fare più nulla. Quando mia figlia è nata ho avuto una sensazione di libertà che non mi aspettavo. E poi ancora Yusuf, mi sono sentito libero quando, dopo essere arrivato in Italia 15 anni fa, ho trovato il mio primo lavoro. Non ero ancora in regola e lo stipendio era piccolo, credo voglia dire era basso, ma avere un'occupazione e dei soldi per vivere è stata la mia più grande libertà. 349-238-6666, si parla di libertà, si parla della storia di Luciano. Il portone del carcere si è chiuso alle mie spalle e questa volta speriamo definitivamente. Mi avvio lentamente per le strade della città con la borsa tracolla. Ho pochi effetti personali. Il resto delle mie cose le ho lasciate dentro, ai miei compagni. È un'usanza. Guardo le facce della gente che incontro camminando. Vedo nei loro occhi stanchezza e preoccupazione. Pensavo di incontrare persone più felici di me, ma mi sembrano tutti stressati. Vabbè, io oggi mi sento felice, pieno di entusiasmo, e non ho proprio voglia di farmi rovinare il mio primo giorno di libertà. Mi guardo in tasca. 20 euro sono tutti i soldi che ho. Mi fermo ad un telefono pubblico per chiamare mia madre, per dirle che sto tornando a casa. Piange, poverina. Piange di felicità. Vado in un bar, bevo un caffè, pago e me ne vado. Nessuno mi ha rivolto la parola. Chissà, Forse hanno letto sulla mia faccia ex detenuto. Scendo in metropolitana per andare a casa. Mi fermo all'edicola per comprare il biglietto e già che ci sono acquisto seconda mano. Durante il viaggio leggo gli annunci, lavoro, offerte. Cercasi magazzinieri specializzati, idraulici, elettricisti, ristrutturatore di mobili e molti altri lavori con richiesta di attestati e diplomi. Cazzo, mi dico, non so proprio fare niente. In tutti questi anni di carcere mi hanno proposto solo ragioneria, geometra e altre cose che non servono a nulla. In carcere ho trascorso quasi 23 anni. Chiaramente le conseguenze hanno cambiato anche il mio carattere. La differenza è che adesso so le conseguenze, prima non le conoscevo. Recidivo, recidivo, recidivo. Questa maledetta eco continua a rimbombare nelle mie orecchie. Ma stavolta sono deciso. Non tornerò in carcere, a costo di mangiare pane e cipolla. Finalmente arrivo a casa. Abbraccio mia madre, mia moglie, mia figlia e il mio cane. Tanta emozione, sensi di colpa per aver fatto soffrire i miei cari. Mi dispiace, ma sono felice nello stesso tempo, perché so che in carcere non ci tornerò più. Recidivo, recidivo, recidivo. Recidivo, recidivo, recidivo. Basta con questa cantilena soffocante. A casa è splendido. Apro il frigo, mi asciugo i capelli con il phon. Apro la finestra, senza sbarre. I miei vestiti sono lavati in una lavatrice e non in un secchio. Che bella la libertà. Arriva il giorno dopo. Sono in affidamento per 2 anni e poi 3 anni di sorveglianza speciale. Motivazione? Sono un delinquente abituale e recidivo. Vabbè, tiriamo avanti. Questa volta ce la faccio. Leggendo seconda mano vedo che cercano lavoratori con un motorino per consegnare la pizza. Mi faccio 4 calcoli. 500 euro un motorino usato. 200 euro per l'assicurazione, fai la benzina, insomma, dovrei spendere 1000 euro e non ce li ho. Ho visto quelle pubblicità che banca, tutta gialla, dice vieni qui che ti prestiamo 5000 euro subito. Mi viene da ridere. Figurati se quella gente mi presta 5000 euro. Farei molto prima a rapinarla, la banca. Recidivo, recidivo, recidivo, recidivo, recidivo. No, questa volta no. Pane e cipolla piuttosto. Nel frattempo che aspetto vedo se riesco a trovare qualcosa in nero, almeno per sbarcare il lunario. È già passato 1 mese da quando sono uscito e ancora non sono riuscito a trovare niente. Insieme a mia moglie abbiamo fatto del curricula per me, da consegnare un po' in giro. Quante stronzate ho dovuto scriverci sopra. Giardiniere, magazziniere, portinaio, insomma, un bel po' di cose. Avevo una gran voglia, quando ero in carcere, delle castagne. Non delle semplici castagne, delle calde arroste. Quel baracchino con il vecchietto che si incontrava sempre vicino al Duomo, che poi magari gli facevi una battuta in milanese e lui ti dava qualche castagna in più. Quindi un giorno vado con mia moglie in Duomo e vediamo il baracchino, in fondo, proprio sotto alla chiesa. Ci avviciniamo e una volta giunti lì, rimango sorpreso. Il vecchietto non c'è più. C'è un cinese che vende le castagne. Le compro, 10 euro. E dico a mia moglie, sediamoci, va, e mangiamoci ste 10 castagne senza sprecarne nemmeno una, visto che ci sono costate 10 euro. Non ci sono più andato a comprare le caldarroste. Parlami, parlami, parlami, parlami, parlami del tuo mondo lontano. Tienimi, tienimi, tienimi, tienimi, stringimi la mano. Giochiamo, giochiamo, giochiamo alla guerra ladrona. Tu fai la signora ed io la poltrona. Sono passati 3 mesi da quando sono uscito di prigione. Ancora non sono riuscito a trovare lavoro. E leggendo i giornali gratuiti, a sentire la televisione, il lavoro manca per tutti. Sento gente che si incatena sopra una gru, gente che si dà fuoco davanti al comune. Gesti folli per assicurarsi un lavoro, è impressionante. In queste ultime 2 settimane ho guadagnato 500 euro, aiutando un amico con un trasloco. Meglio di niente. Un altro conoscente mi offre di lavorare per lui come padroncino, per fare consegne con il furgone. Mi piacerebbe, però non lo posso fare perché si trova in sorveglianza speciale e non può avere la patente. La verità è che sto incominciando ad incazzarmi. Recidivo, recidivo, recidivo. Stamattina presto ci hanno svegliato gli elicotteri. Brutto segno a Quarto Giaro. È in atto un mega blitz delle forze dell'ordine. Ci sono proprio tutti: carabinieri, polizia e tanta, tanta gente in borghese. Risultato: una 30ina di ragazzi del quartiere è stata arrestata Ci sono le foto sul giornale. Li conosco tutti. Penso alle loro famiglie. Tutti hanno figli. Insomma, c'è molta miseria qui. Però una cosa positiva c'è. Questa trentina ha assicurato un po' di lavoro ad avvocati, magistrati, cancellieri. Almeno siamo utili per la società, in qualche modo. Mia madre e tutte le madri di Quarto Giaro sono abituate a sentire gli elicotteri. Quando gli elicotteri si abbassano, queste mamme sanno che più di una famiglia oggi piangerà. Per il recidivo è difficile esercitare il diritto di avere dei doveri verso se stesso e verso la società, perché la recidiva limita le relazioni con la società. Finalmente un colpo di fortuna. Tramite un amico, anche lui ex detenuto, riesco a fare un colloquio con un responsabile di un centro commerciale di Assago. Gli racconto un sacco di balle, tra le quali che non ho precedenti penali. Mi assumono, però mi dicono che mi pagheranno dopo 3 mesi. Sono contratti che fanno le cooperative. Insomma, una buona notizia per quanto riguarda il lavoro. Brutta però, perché non so come tirare a campare in questi 3 mesi. Vado da mia madre, le spiego la situazione. Alla fine mi aiuterà lei con la sua pensione. Ormai è quasi un mese che lavoro al centro commerciale. E succedono di cose strane lì dentro, eh? Rubano tutti. Le cose che vanno più a ruba sono i prodotti di cioccolato. Robe da matti. E pensare che il ladro dovrei essere io. Mi auguro che un giorno non diano la colpa a me. Qualcuno l'hanno beccato con del pesce surgelato nei pantaloni. Che figura di merda. Intanto al lavoro sta succedendo un bordello. La cooperativa che mi aveva assunto non c'è più. Ne è subentrata un'altra. Gira voce che rischiamo di non prendere i soldi dei primi 2 mesi. Quelli della nuova cooperativa ci pagano l'ultimo mese, mentre gli altri due stiamo litigando per farceli pagare. Dicono che hanno un ufficio a Torino. Alla fine, ancora oggi, non sono stato pagato per i 2 mesi di lavoro, i primi 2. E ci contavo su quei soldi. Anche perché ci sono le bollette da pagare. E poi pensavo di restituire un po' di soldi a mia madre. Sono incazzato nero, di brutto. Li dico con mia moglie. Poverina, lei cosa c'entra? Sto sveglio tutta la notte. Mille pensieri mi tormentano la testa. L'eco della recidiva incomincia ad affievolirsi. Quasi non lo sento più. È giunta la mattina. Sono stato sveglio tutta la notte. Però adesso ho scelto. Adesso so cosa farò. Lascio a voi che ascoltate decidere la fine di questa storia. Per chi si fosse messo in collegamento solo adesso, come dicevano i radioconduttori di una volta, il racconto che avete sentito non è un racconto come tutti gli altri, non è un racconto che è arrivato a voi siete qui, @radio24.it, è un racconto che grazie ad Alessandra Tedesco e al gruppo che si chiama Trasgressione, che lavora con detenuti ed ex detenuti dei carceri di Milano Opera e Bollate, abbiamo recuperato, che è stato scritto da un ex detenuto nella fattispecie, che si chiama Luciano ed è al telefono con me. Pronto Luciano? Ciao, buongiorno. Ciao, come stai? Bene, grazie. Senti, grazie per il racconto che peraltro anche gli ascoltatori possono trovare direttamente sul sito trasgressione.net, giusto? Correggimi se sbaglio. Ok, trasgressione.net. Senti Luciano, dove ti trovi esattamente in questo momento? Adesso sono all'ufficio SER di Corso Italia, al gruppo Trasgressione. Quindi siete tutti lì, siete tutti insieme? Sì, tutti insieme. Mi fate sentire che siete tutti lì, magari con un urlo generale, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Senti Luciano, veniamo a noi, veniamo al racconto. Tu tieni presente che parli con uno che non sa niente di carcere e quindi diciamo ci sono delle cose che mi incuriosiscono, che sono proprio riguardo alla vita all'interno del carcere. Cioè, cosa si fa in un giorno tipico in un carcere? Cioè, a che ora ti svegli? Che attività fai la mattina? Cosa fai il pomeriggio? Dove mangi? Beh, praticamente di attività nel carcere se ne sono ben poche. La maggior parte della giornata la trascorri chiuso, quindi sono quella di lavarsi, di mangiare, Insomma, alla fine non è che ci sia molto da fare. Ma avete però una radio, una televisione? Sì, quello sì, la radio ce l'abbiamo, la televisione ce l'abbiamo. E che radio ascoltate? Guarda, quando vogliamo ascoltare le parole sentiamo Radio Radicale, che c'è Radio Carcere. Ci tiene informati un attimino di come vanno le cose. Certo. Invece quando facciamo magari le pulizie la mattina in cella sentiamo la musica, so, Radio DJ. Ma ad esempio voi potete cucinare in cella oppure c'è una mensa e bisogna mangiare solo quello che c'è in mensa? Cucinare è un privilegio in carcere, cioè la gran maggioranza non se lo può neanche permettere. Quando ci sono delle cose che, diciamo, nel mondo di fuori si festeggiano, no? Per cui, che so io, il Natale, la Pasqua o i compleanni, in carcere si fa la stessa cosa, cioè riuscite a festeggiare? Quello che ti chiedo è, c'è voglia di festeggiare all'interno del carcere oppure, tipo, lasciamo stare, sospendiamo un attimo e quando usciamo torniamo a vivere normalmente? Onestamente per noi non è festa là dentro, cioè proprio in nessun modo. Quanto sei stato in carcere, Luciano, tu? 23 anni. E non ti ricordi, ad esempio, di una volta in cui una festa ti ha alleggerito la vita in carcere? O era il contrario? Forse l'unica festa che mi ha alleggerito è stato l'indulto e l'amnistia. Lo immagino. Senti, mi dici qual è il ricordo più bello del carcere che hai? Guarda, onestamente non me ne viene neanche uno in mente. Senti, cosa stai facendo adesso? Sto cercando lavoro, ma è difficile per me, molto difficile. Ma che cosa hai fatto? Nel tuo racconto ci dici che hai lavorato in un supermercato, in un centro commerciale, giusto? Sì. Ad Assago. È molto divertente il pezzo in cui dice che ne succedono di tutti i colori al supermercato. Mi faceva ridere soprattutto il fatto di quello che viene beccato col pesce surgelato nei pantaloni. Sì, no, effettivamente molte volte nelle nostre condizioni ti senti che sei tu il peggiore della situazione, poi alla fine ti rendi conto che c'è tanta gente disonesta in giro. Senti, quanti anni hai tu, Luciano? 45. Quindi hai cominciato presto in carcere, cioè hai fatto praticamente quasi più tempo in carcere che fuori. Sì. E quando esci, riesci ad avere una giornata normale? Cioè, riesci a far finta che non sia successo o semplicemente a pensare solo al futuro? Mica tanto, il futuro lo vedo sempre molto più incerto. Tipo il prossimo lavoro che hai in mente di fare o che riesci a fare, o un colloquio, hai delle robe a breve da fare? Guarda, io se potessi fare qualche corso per imparare a lavorare, perché io in 23 anni non ho mai avuto questa opportunità e in carcere mi fanno studiare il ragioniere, ma chi lo fa il ragioniere quando esci? Luciano, l'ultima cosa, so che è una domanda difficile, però visto che tutto il tuo racconto verte dal primo momento in cui esci dal carcere e quindi parla della libertà, mi dici che cos'è per te la libertà? La libertà è qualcosa che devi avere dentro, se non hai dentro la libertà non puoi averla neanche fuori di te. Luciano, senti, io ti ringrazio moltissimo per la chiacchierata, per il tempo che ci hai dedicato e per il racconto e ti auguro ovviamente in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao, grazie Luciano. Ciao. È arrivato un messaggio di Arianna che scrive: io mi sono sentita libera quando ho venduto tutte le azioni e le obbligazioni con le quali mi ero quasi rovinata. Voi siete qui. 349-238-6666. Si parla di libertà e... il tema della libertà è un po'... Allora, lo diciamo, cioè proprio è facilissimo scivolare sulla retorica quando si parla di libertà, è veramente molto facile. Io cerco di non farlo, anche se purtroppo ogni tanto, diciamo, una buccia di banana dietro l'angolo la si trova sempre. Però sono contento che invece arrivano dei messaggi che vanno in una direzione più o meno retta, cioè diritta. Giorgia: sono libera da quando ho scoperto il buddismo. Serena: mi sento libera da quando ho sfondato il vetro dell'auto del mio ex. Questi sono proprio due messaggi che raccontano quanto possa essere diverso il concetto di libertà. Uno perché ha scoperto una religione o una filosofia, il buddismo. Non l'ho mai capito bene. 349-238-6666. Il buddismo è più una religione più una filosofia. Io voto più per religione, anche voi di là, secondo me. Margherita Ina non vota niente. Vabbè, ma voi siete comunisti, cosa ne sapete voi di religione, di filosofi? Va bene. E invece, appunto, Giorgia, per Giorgia la libertà è quello. Per Serena invece: mi sento libera da quando ho sfondato il vetro dell'auto del mio ex fidanzato con la televisione che mi aveva regalato. È infantile, ma mi sono sciolta da quel legame assurdo. Va bene, guarda, Serena, basta... Basta sentirsi liberi. Però giustamente Bonini suggerisce che forse questo è stalking o quantomeno è denunciabile. No? cioè la televisione era tua, però l'auto era sua. Però non so come, ma annuso qua sotto dei sensi di colpa che faranno sì che il fidanzato non denuncerà nessuno, e farà finta che è tutto a posto. Pier Mario, mi sono sentito libero perché... Ah no, scusatemi, mi sento libero perché mio nonno, esattamente 67 anni fa, liberò questo paese da una dittatura. 349-238-6666. Prima ho spiegato che cos'era il gruppo Trasgressione, e ringrazio anche le persone che ci hanno permesso di entrare in contatto con loro e di raccontare una loro storia. Di fatto ho capito che c'è un coordinatore, che è la persona che gestisce il tutto, che lancia dei temi su cui riflettere. In quel caso, per il racconto che vi ho letto, era chiaramente il concetto di libertà, però poi i temi sono svariati. Mi facevano degli esempi tipo il superamento dei limiti, il male, la colpa, robe grosse. Questo coordinatore, appunto, che credo sia lo psicologo di cui vi parlavo prima, che si chiama... vi dico subito il nome, si chiama Angelo Aparo, decide un tema e si ragiona e si scrive a quel proposito. Ho scelto un altro racconto da leggere oggi, che sinceramente non ho capito su quale tema vertesse, però mi è piaciuto perché in meno di una pagina Salvatore, che è l'autore di questo racconto, ha di fatto raccontato tutta la sua vita, da quando era bambino a oggi, ed è veramente un disegno preciso e perfetto di chi è lui, degli errori che ha fatto e del modo in cui cerca di uscire. Lui si chiama Salvatore e questa è la sua storia. Questa testimonianza del mio passato la racconto per farmi aiutare nel mio progetto futuro. Iniziò tutto nel 1971. Arrivammo a Milano, io con la mia famiglia. Ero un bambino, c'era la neve ed io non sapevo nemmeno cos'era. Non l'avevo mai vista nemmeno in televisione, perché non ce l'avevamo. Milano era troppo grande, mi sembrava l'America, c'era tutto. Ho iniziato a rubare che avevo 8 anni. Era tutto libero, facile. Avevo il cortile dove abitavo pieno di biciclette, tutte rubate. Potevo fare il ciclista in quegli anni. Le persone si facevano tutti i fatti loro, erano omertosi e io ci sguazzavo dentro. Una volta, in una delle mie prime rapine, avrò avuto 11-12 anni, rapinammo un tassista e gli portammo via la macchina, una 124, con la frizione bruciata. Il poveraccio, prima di abbandonarlo a piedi, ci disse che la macchina era tutto quello che aveva. E noi litigavamo per chi doveva guidare. Nessuno dei tre arrivava ai piedi allora, ma la portammo via ugualmente. Uno ai pedali, uno al volante e un altro alle marce. Ci sembrava un gioco, anzi, per me era proprio un gioco. Anche se ora che ci penso, un gioco molto pericoloso. Non conoscevo la paura. Poi a 14 anni ho conosciuto la cocaina e le donne. Sì, contemporaneamente. Perché fu una donna molto più grande di me a farmela scoprire. Aveva 28 anni ed è stata la mia prima esperienza sessuale. Nelle mie tante imprese sono stato fortunato, perché fino all'età di 36 anni, cioè fino al 2000, non sono mai stato preso. Adesso però, dopo aver trascorso 10 anni in prigione, si è rotto qualcosa. Forse quel giochino che io credevo immortale. La mia vita è stata vissuta più da fatto che da pulito. Ora che ho capito che da pulito riesco ad affrontare meglio le cose, sento che sto rinascendo e il mio progetto è quello di liberarmi completamente dalla droga. Non importa se sono in galera. Vi sembrerà strano, ma forse la galera mi ha salvato la vita. Chissà che cosa avrei combinato fuori. Magari avrei potuto ammazzare qualcuno. Oppure no, sarei morto per un infarto in mezzo alla strada. Oppure sarei in galera, però con l'ergastolo. Io ho un fine pena attuale che è il 2015. E sto lavorando su di me per quando uscirò dal carcere. Mi spiace molto per aver fatto soffrire la mia famiglia, mia mamma e tutte le persone che ho terrorizzato. Qui ho scoperto che quando dipingo e scrivo sto bene. Insomma, creare qualcosa e costruire l'ho sostituito all'adrenalina che provavo quando facevo le rapine. Mi voglio bene e credo di aver capito finalmente cosa voglio. Salvatore. On bended knee is no way to be free. Lifting up an empty cup, I ask silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Everyone I come across. in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. 349-238-6666, Giovanna. Mi sono sentita libera quando un ladro in casa mia se n'è andato dopo che avevo fatto finta di dormire. Questa è una storia che non è la prima volta che sento. Un'amica di mia mamma è successo che ti entra ladro in casa, tu fai finta di dormire, forse è la cosa migliore per evitare altri danni. Si parlava di questo, questa storia del ladro, evidentemente non il SMS di Giovanna, ma le storie che stiamo raccontando oggi, posso immaginare che suscitino sentimenti contrastanti. Tra tutti leggo un SMS che è arrivato non so da chi e non so da dove perché non è firmato, che dice: è facile fare scelte di comodo e delinquere e poi scrivere storie di redenzione. Non voglio entrare nel merito di quello che tu scrivi, non voglio dire se hai ragione o torto, così come non voglio entrare nel merito delle storie che abbiamo letto e che detenuti ed ex detenuti scrivono grazie a questo gruppo che si chiama Trasgressione. Quello che noi facciamo in assoluto in questo programma è prendere delle storie e raccontarle. Di solito lo facciamo in una direzione, che è quella di chiederla a voi, voi ce le inviate, se vi va, se non vi va no. Cercare di renderle più o meno radiofoniche, perché alcune sono lunghe, le accorciamo, eccetera, eccetera, e fare una puntata dedicata a quella. Abbiamo fatto la stessa cosa oggi e abbiamo scelto due tra le tante storie che Alessandra Tedesco ci aveva segnalato, scritte da detenuti ed ex detenuti, e le abbiamo raccontate. Punto, questo è quanto. Poi è chiaro che ognuno si fa un'idea di quello che di quello che sente e di quello che decide di immaginare. Noi, ripeto, raccontiamo semplicemente storie. A proposito di storie, visto che le abbiamo trovate lì, se vi va di sapere qualcosa di più sul gruppo Trasgressione e di leggere altre storie che loro raccontano, guidate da questo coordinatore che gli fa riflettere su alcuni temi, lo trovate sul sito internet trasgressione.net, poi magari lo carichiamo sul profilo Facebook, così è più facile, in cui si vede tutto quello che fanno. Non so esattamente cosa, ma c'è qualcosa di interessante qua dentro. L'ultimo messaggio che è arrivato oggi: Emiliano, mi sono sentito libero settimana scorsa quando ho acceso il mio mutuo. Può sembrare assurdo, perché per molti so che è proprio il contrario. Per me invece avere un impegno di 750 euro al mese da mantenere e una famiglia che conta su di me è il più grande atto di libertà. Chissà che forse libertà non abbia a che fare con responsabilità. Grazie a quelli che hanno reso possibile la puntata di oggi. Ringrazio ancora Alessandra Tedesco e tutto il gruppo Trasgressione, Paolino Corleoni, Tiziano Bonini e Margherita Ina. La storia di oggi era la storia di Luciano e parlava di libertà. La storia di domani è quella di Enzo e parla di resistenze. Con il lavoro avevo perso il prestigio, una condizione sociale e gli amici. Perché a 53 anni non ti ricicli più. Subito avevo fatto di tutto, dal guardiano notturno nei cantieri al portiere d'albergo, e da un anno e mezzo ero diventato assistente tecnico, che è una maniera carina per dire che facevo poco più che il bidello, presso l'Università di Verona. Ma non avevo smesso di sognare.